Il punto di Stefano Folli. Non stupisce certo che in tutti i sondaggi sia il lavoro, la mancanza del lavoro, in testa alle preoccupazioni degli italiani, di sicuro non la legge elettorale. Eppure oggi è necessario che il Parlamento arrivi a definire questa infinita riforma, perché si spera che sia lo strumento per restituire al sistema politico, pressoché fallito, l'efficienza e la flessibilità indispensabili a decidere e quindi a governare. Se è così, rassegniamoci a qualche settimana di complicate trattative intorno a un prodotto che si presenta non privo di astruserie tecniche e cui testo iniziale, ora pronto sulla carta, dovrà passare al vaglio del Parlamento e dei 1000 emendamenti che verranno presentati per correggerne e modificarne le contraddizioni, che sono ancora numerose. Tutto questo non esime il governo in carica, guidato da Letta, dal battere qualche colpo, proprio sul lavoro e sugli altri temi che angosciano gli italiani. Oggi si parla solo di riforma elettorale e questo proprio non basta.